quindi abbiamo detto Raul Lauri, oggi ha vinto il primo premio del Salone Satellite Awards, terza edizione. Siamo in compagnia di Marcantonio, un amico di Raul, che ci tradurrà in italiano per gli ascoltatori di Radio 24 questo progetto De Caffè. Poi il bello è che tu mi hai chiesto di descriverlo perché siamo in radio, ma la cosa bella è che questa è una tecnica, quindi non è un oggetto, è molto più facile da immaginare. Praticamente Raul cosa ha fatto? Ha studiato che il caffè è la seconda materia più consumata in tutto il mondo, subito dopo il petrolio. Lui ha sviluppato una tecnica completamente naturale per compattare il caffè e poterlo lavorare come un legno, come un materiale molto lavorabile. Quindi lui ha presentato alcune soluzioni, ma in realtà quello che presenta, e il motivo per cui è arrivato primo, è che ha trovato questa tecnica rivoluzionaria per riutilizzare il caffè, la polvere di caffè usata, e utilizzarla come un materiale nuovo, con cui si può fare pressoché qualsiasi cosa. Quindi io mi faccio il caffè e poi tieni con quella... da parte la polvere, la dai a Raul, che la lavora e poi si può fare qualsiasi cosa, capito? Abbiamo delle lampade. Sì. Allora lui ha fatto queste lampade per presentare la sua tecnica, e queste sono delle lampade che all'interno hanno dei LED ricaricabili e un sensore per cui una volta ricaricata è senza filo, e in base a come la orienti vedi cambia la luce. Se tu la giri la luce si spegne, se tu la metti in su è la più tenue, se invece tu la inclini, la punti da qualche parte, è il punto più potente. Esatto. Quasi, quasi. Però lui poi ha fatto delle lampade, dei contenitori, esatto. È il potenziale che è enorme.